9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 4 di ottobre. Questo un tempo era celebrato come San Francesco, quindi auguri a tutti i franceschi. Io ho anche un fratello, ma al di là di quello, San Francesco patrono d'Italia, quindi per questo lo sto dicendo. Oggi dedichiamo il nostro inizio di settimana, il nostro incontro quotidiano fino alle 10, sui temi che sono al centro della vita, dell'organizzazione, della gestione, dell'economia di quella che è la capitale morale, a noi piace ancora chiamarla così, dell'Italia, cioè Milano, e abbiamo con noi in maniera straordinaria per tutta l'ora della nostra trasmissione in studio insieme a noi il sindaco di Milano, e io sono molto lieto che abbia accettato di stare con noi. Guardate che la vita di un sindaco di una grande città ha un'agenda un po' complicatuccia, quindi averlo per un'ora, lo dico prima che voi partiate subito con i commenti, con le domande più aggressive, è una cosa di cui essere molto grati. Buongiorno signor Moratti. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti voi. Allora, io chiedo a voi che siete a casa, 800 24 0024, sapete che poi tenteremo di mandare in onda qualcuna delle vostre domande, di concentrarci insomma sui temi, non facciamo sempre i cattivoni che andiamo sulle polemiche. Milano è un punto al centro di incroci che riguardano la vita civile, economica, la proiezione internazionale del nostro paese, c'è la vicenda dell'Expo aperta in proiezione una grande scommessa internazionale, è un esempio al quale guardano grandi centri urbani del mondo per capire come in Italia qua si risolvono problemi urbani, di proiezione, di infrastrutture. Non iniziamo immediatamente a pensare a cose piccole, almeno il mio taglio non è quello, come sapete, quindi oggi chiediamo al sindaco di fare una riflessione con noi su che cosa a questo punto del suo mandato si concentra sul suo tavolo quotidiano. La prospettiva è quella di risolverli i problemi, non quelli di accapigliarsi dicendo colpa mia, colpa tua se non si risolvono, e di capire certo alcuni dei maggiori che sono in proiezione sul tavolo del sindaco di Milano, se si possono risolvere, in che modo, e ce ne sono tanti, appunto, lo sapete meglio di me, dalla coesistenza civile alla sicurezza, al problema di riuscire ad avere le risorse per infrastrutturare meglio Milano una volta che le si è programmate, perché programmate sono programmate. Milano e la Lombardia sono una delle regioni, lo ricordo sempre, d'Europa in cui sono previste più opere infrastrutturali, e ve ne sono tra le maggiori in project financing, quindi con la collaborazione delle imprese private. Qui c'è quella con il maggior impegno finanziario in tutto il nostro continente. Quindi il problema poi naturalmente è rispetto alle ristrettezze del nostro paese, al patto di stabilità interno che pone dei limiti alla finanza comunale, anche a quelli virtuosi, eccetera eccetera. Tutto questo pone un problema che il sindaco poi, che ha una storia particolare, lo sapete, non è, o meglio non era fino a poco tempo fa, ma insomma non è espressione diretta di un'indicazione di partito, ha una sua storia come imprenditrice, come manager, una sua storia come radicamento nel consenso della città. Tutto questo è un vantaggio, ma talvolta poi nel rapporto con i partiti diventa anche un problema, perché i partiti sono naturalmente caratterizzati da logiche e dinamiche che tendono a far sentire sul collo di chi ha una propria personalità, un proprio consenso radicato, delle pretese, e soprattutto quando negli ultimi mesi, fine della mia introduzione, nel centrodestra a livello nazionale emerge quello che tutti i giorni siamo costretti a dirvi. Gli sviluppi ultimi sono anche quelli relativi al discorso proprio alla festa del Popolo della Libertà tenuto dal Presidente del Consiglio ieri al Castello Sforzesco di Milano, un discorso che i giornali di oggi interpretano come un nuovo passo dopo la settimana di convergenza parlamentare verso una tensione, perché il Presidente del Consiglio, oltre ai 5 punti, ha riposto questa questione che non c'era nei 5 punti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla giustizia, e le reazioni della componente finiana tornano a essere non molto positive. È chiaro che voi dite il sindaco di Milano non si occupa di cose nazionali, però Milano è uno degli epicentri della politica nazionale. Quando questa tensione c'è nel centrodestra è inevitabile che anche a valle sindaco la vita si complichi. Allora, mi perdoni signor sindaco di queste parole che ho speso un po' con una descrizione un po' impropria ma un po' superficiale di tutti i guai, i problemi, ma anche le sfide esaltanti che essere sindaco di Milano implica. Io partirei dalla settimana della moda che c'è appena stata, che tutto sommato poi è una delle parti dell'anno che colpisce di più le impressioni di tutti coloro anche che non vivono a Milano, non lavorano a Milano, ma insomma vedono gli obiettivi internazionali sul nostro paese concentrati intorno a un appuntamento tradizionale. Qualche anno fa molte polemiche perché si pensava che altri centri internazionali della moda fossero pronti a sgraffignarci di fronte al fatto che a Milano le cose non funzionavano bene, non era più diventato la prima fila in cui le grandi firme volevano venire. C'era anche una specie di zampino dei grandi organi di stampa internazionali che ovviamente guadagnano un po' di più se la cosa non si fa a Milano ma si fa tutta concentrata a New York e Parigi. Detto tutto questo, l'impressione che ha avuto lei quest'anno e quello che rappresenta la moda per Milano come proiezione internazionale, quest'anno in realtà com'è andata? I profeti di sventura sono stati abbastanza delusi e in prospettiva lei vede che c'è ancora da fare, c'è da radicare meglio la moda a Milano e come? Grazie per questa domanda. Allora, io credo che la moda a Milano abbia delle caratteristiche assolutamente uniche nel panorama internazionale, perché parte dalla creatività, che in qualche modo è anche figlia della bellezza, che è tipica del nostro paese, forse del patrimonio culturale di bellezza che è tipico del nostro paese, forse più di altri, per arrivare fino alla innovazione, alla ricerca e arrivare poi alla produzione anche artigianale personalizzata. Quindi le caratteristiche della nostra città pongono la nostra città in una condizione di non avere mai la possibilità di essere superata da altre. Possiamo certamente avere degli alti e bassi dal punto di vista della presenza internazionale, dell'appeal della nostra città, ma non sicuramente dal punto di vista della capacità della nostra moda di essere leader nel mondo. Cito solo l'esempio, gli investimenti in innovazione significa investimenti in ricerca sui nuovi materiali. La moda vive molto sui nuovi materiali e questa è una caratteristica che le nostre università sanno sperimentare a beneficio del sistema produttivo moda. Quindi, fatta questa premessa e detto anche che la moda per noi rappresenta il 27% del nostro prodotto interno lordo milanese, con 7.000 imprese, 100 miliardi di euro di fatturato, è un export di 4 miliardi, quindi è un settore produttivo da sostenere con forza. Quello che noi abbiamo cercato di fare come comune insieme agli stilisti, e naturalmente ringrazio gli stilisti per questo, è di avere un calendario che fosse più disteso, quindi che consentisse alla moda di poter far vivere la città in maniera diversa, quindi eventi, la moda in città, e questo ha permesso una partecipazione maggiore da parte dei cittadini, ma anche permesso di avere eventi culturali, eventi di intrattenimento, di spettacolo, e ha permesso di avere un indotto importante, quindi tutto il mondo dell'ospitalità, quindi bar, ristoranti, ma anche tutto il mondo che vive attorno alla moda, come le imprese altrettanto importanti per la nostra città, di editoria, i giornali e tutto quello che riguarda il mondo della pubblicità, del marketing, della comunicazione, hanno beneficiato di questa di questa nuova impostazione. Siamo persino, lei parlava dei giornali internazionali, siamo persino stati lodati dall'Herald Tribune, da Susie Menkes, che insomma, certamente non è una firma vera, sì, esatto. E peraltro nel primo semestre del 2010 il Made in Italy della moda, diciamo insieme moda e lusso, hanno recuperato un 8,1% di fatturato, quindi 8,2 miliardi di euro, e anche utili, e sono risaliti in maniera significativa rispetto all'anno scorso. Quindi la nuova formula della moda a Milano ha funzionato grazie a un gioco di squadra. Adesso certamente va consolidato questo nuovo corso. Ecco, io a chi è in ascolto e pensa che parlare di moda sbagliando, perché questa poi resta la Radio 24, la radio del sistema delle imprese di Confindustria, la moda a Milano non è una questione semplicemente di grife, di allure, del quadrilatero, come pensa chi non ha una cognizione precisa. Avete ascoltato il peso che ha l'intero settore allargato nell'economia di Milano? È un concentrato di settori avanzati, non solo di ricerca, ma di strategie commerciali, di innovazioni gestionali. Quindi difendere questa roba qua, perché vedo che alcuni iniziano a dire cominciate con la moda, la mettete facile. No, cominciamo con la moda, perché è uno dei settori di proiezione internazionale di questa città che vanno difesi con le unghie con i denti, perché pensiamo che con la crescita si faccia immagine, ricerca avanzata e si attiri. Quando voi, alcuni dicono, signor sindaco, il quadrilatero no, è un problema che riguarda la crema che viene internazionale nel nostro paese, però i problemi di Milano non sono quelli di via Monte Napoleone. Nessuno ha detto questo, cara cittadina che mi mandi il messaggio, però il quadrilatero è uno dei biglietti da visita più importanti mondiali di questa città, o no? Sì, e non solo, ma nel quadrilatero non sono occupati solo cittadini che vivono nel quadrilatero, sono occupati cittadini che vivono anche in altre zone della città, quindi la moda è un settore che dà anche lavoro, la moda e l'indotto, come ho detto, quindi quando noi riusciamo ad avere bar, ristoranti, alberghi e tutto il mondo che ruota attorno alla moda, dai parrucchieri ai fotografi, diamo occupazione a persone che, guardi, certamente non vivono nel quadrilatero. Esatto, sì. Senta, dopo la moda, pensiamo un pochino ai settori che la impegnano di più nella promozione internazionale delle attività economiche di questa città. Questo, voglio dire, per fare il sindaco di Milano significa appunto avere un po' l'obbligo di promuovere una parte fondamentale dell'economia italiana, dover fare molte attività, chiamiamo, di diplomazia internazionale. Lei non è un ministro, ma ho l'impressione che rispetto a alcuni ministri del governo nazionale sia obbligata ad avere più attività internazionale di loro, perché si tratta non solo di confrontarsi con i problemi degli altri sindaci delle grandi città, lo sviluppo urbano, i modelli di trasporto eccetera, si tratta di promuovere le attività economiche di Milano nel mondo con primi ministri esteri, insomma questa attività nell'evoluzione del suo mandato la porta a dire. La sensazione che ha è che dopo questi due anni terribili di crisi che abbiamo, a che punto sta per Milano la sua economia, quello che può fare lei, ovviamente, che non si può sostituire al governo nazionale, però insomma, e concludo, l'esperienza delle grandi città tedesche, per esempio, visto che tutti diciamo facciamo come la Germania, e che sono i sistemi economici delle città tedesche a muoversi nella proiezione internazionale, cioè Hannover, la grande fiera di Hannover che è andata in Cina tanti anni fa, è perché il sistema cittadino dell'economia, non solo non tanto il governo federale, è stato capace di fare queste cose. Quindi anche questa non consideratela in ascolto una domanda improprio. Stamattina siete cattivissime, cioè, guardate che io tento sempre di metterla per un'Italia positiva e voi capisco che a volte dite che bisogna picchiare, però cerchiamo di capire un po' dal sindaco l'economia di Milano per i contatti che ha lei, che polso ne ha. Certamente l'economia di Milano è un'economia aperta, un'economia molto internazionale, quindi anche soggetta alla globalizzazione, alla competizione internazionale, quindi per questo motivo va sostenuta con azioni, come dice lei, che sono azioni anche di diplomazia commerciale, quindi noi cerchiamo di promuovere insieme alla Camera di Commercio, il braccio operativo di Camera di Commercio che è Prom, iniziative volte a o favorire investimenti diretti a Milano, e gli investimenti diretti a Milano che portano nuovamente posti e occupazione sono il 52% degli investimenti diretti internazionali in Italia, oppure anche ad aprire nuovi mercati. Per questo motivo abbiamo, come dice lei, effettivamente stiamo lavorando con tantissimi paesi, quindi dalla Russia, la Cina, la Corea, il Vietnam, quindi tutti i paesi, chiamiamoli, che stanno crescendo maggiormente, ormai chiamarli paesi emergenti. Sì, sono emersi, anche solo avere locomotiva. Non ha proprio più senso, e quindi per questo motivo abbiamo promosso, stiamo promuovendo iniziative di per facilitare le imprese a avere opportunità in questi mercati. Questo è importante, per esempio, cito solo alcuni esempi, io effettivamente ho ricevuto più di una volta il presidente e il vicepresidente del Vietnam. In Vietnam ci sono investimenti italiani interessanti, quindi da Piaggio ad altri, Loro Piana, quindi sono parecchi gli investimenti, quindi avere relazioni che facilitino, aiutino questi investimenti sicuramente è importante. Per la Cina abbiamo aperto, noi abbiamo a Milano 30 banche internazionali che hanno sede a Milano. L'ultima che ha aperto è stata quest'anno la Bank of China. L'anno scorso, 2 anni fa, hanno aperto le 2 più importanti banche giapponesi. È chiaro che questo facilita le nostre imprese ad avere contatti con dei mercati e dei mondi che sicuramente hanno delle difficoltà di approccio. Ecco, stiamo lavorando molto anche con le università, per esempio, per preparare quelli che saranno i manager delle nostre imprese a conoscere questi mercati. Per esempio, abbiamo lanciato l'avevo fatto io da ministro, l'ho inaugurato da sindaco, il primo campus universitario italo-cinese con 2 università milanesi, Bocconi e Politecnico, e 2 università di Shanghai, Fudan e Tongjin. E per la prima volta i nostri ragazzi possono studiare un anno qui, un anno in Cina, e avere dopo i 4 anni titoli equipollenti, quindi titoli riconosciuti sia in Italia che in Cina. È un modo per aiutare le imprese a dotarsi di manager capaci di conoscere dei mercati. In questo caso si studia in italiano, in cinese e in inglese. Quindi questi sono solo alcuni piccolissimi esempi. In Corea stiamo aprendo un distretto culturale che ha visto la Triennale come primo protagonista, ma è chiaro che un distretto culturale dove c'è una fondazione come la Triennale è trainante rispetto al settore del design, non è fine a se stesso. Certo. Quindi, oltre al fatto che è importante per la cultura, è importante nuovamente per un settore che insieme alla moda contribuisce al 50% del prodotto interno milanese, quindi un settore estremamente positivo. Allora, siccome siamo riusciti a fare riferimento alla Cina come locomotiva, io inevitabilmente prima di arrivare alla fine della nostra prima metà dell'appuntamento affrontiamo un secondo il tema dell'Expo in prospettiva, perché a proposito, guardate che i programmi di studio incrociato universitari sulla Cina sono veramente fondamentali. In questo io mi batto molto con i figli dei miei amici per iniziare a fare istruzione universitaria di terzo livello, non solo e non tanto negli Stati Uniti, dove siamo andati noi, che ovviamente è sempre assolutamente un tempio di eccellenza, però quando negli ultimi 2, 3, 4 anni sono riuscito a convincere figli di amici ad andare a fare il master, questa volta direttamente in Cina sul mercato cinese, dove bisogna radicarsi, sono tornati entusiasti, ci tornano entusiasti e soprattutto hanno delle prospettive immediate che sono effettivamente diverse. Quindi in questo lo dico perché dopo la trasmissione che abbiamo avuto venerdì e che ha fatto molto discutere i nostri ascoltatori su mandare i figli all'estero, appunto, non scartate assolutamente le scuole di business se siete alla ricerca di un master, ma anche a livelli inferiori ci sono punti di eccellenza oramai anche a Pechino, non solo a Shanghai, che valgono la pena per i vostri figli di essere attentamente esaminati. Ve lo dico con il cuore in mano e pensando bene alla rapidità di proiezione e di riconversione del mercato. Lì c'era la locomotiva. Allora, Expo, se posso permettermi, ecco, anche in Giappone, per esempio, per tutto il settore della robotica. Noi abbiamo già degli accordi molto interessanti, ma lavorando insieme possiamo dare ai nostri ragazzi prospettive di impieghi in settori che sono davvero i settori del futuro. Allora, signor Sindaco, l'Expo, lei sa che io le devo chiedere non tanto e se oggi o domani, perché poi ci sono anche cose di cronaca politica, riuscirete a sbloccare nei 3 diversi livelli di governo che sono quelli delle autonomie milanesi. Poi c'è anche però il tesoro a livello nazionale, che non è che sia stato assente nell'avere un ruolo sulle decisioni e sul tempo che passava per le decisioni dell'Expo. C'è questo aspetto, se riuscirete a sbloccare le aree, ma insomma l'aspetto è un po' più generale per l'Expo. Qui l'Expo è una sfida per Milano, per Lombardia, ma per l'Italia di grandissima proiezione. Certo, l'impressione dopo tanto tempo dall'aggiudicazione e oramai avvicinandosi all'ennesima tappa col check del BIEC, che è l'ente internazionale che affida e aggiudica le grandi edizioni internazionali di questa manifestazione e poi controlla che tutto stia andando avanti bene rispetto alla programmazione del tema, alla progettazione, eccetera, eccetera. Insomma, è un fatto che siamo molto indietro, signor Sindaco. Certo, sarà colpa dell'uno, dell'altro, di nessuno, del sistema Italia, però in realtà che tempi ci sono per pensare di sbloccare e come le cose, perché altrimenti il rischio veramente è per l'intero sistema Italia, ecco. Allora, se lei mi permette, vorrei fare una premessa sull'importanza di Expo, che lei ha sottolineato, e la ringrazio moltissimo per questo. Allora, io ho voluto candidare Milano per l'Expo, e l'aggiudicazione non è un'aggiudicazione fatta dal Bureau International des Expositions, ma fatta da 155 paesi. Si vota. Esatto, si vota, e si vota a voto segreto, tra l'altro, quindi abbiamo avuto un'ampia maggioranza sulla Turchia, paese non facile da battere. E questo ci ha permesso di allacciare e consolidare rapporti anche con paesi con i quali non avevamo grandissimi rapporti. Per esempio, un rapporto interessante che abbiamo creato con la Mongolia, che è molto interessata a incrementare il lavoro con noi in tutto il settore del tessile. Ma fatto questa premessa, ecco, io voglio dire quali sono i motivi per i quali ho candidato Milano. Primo, certamente quello di poter utilizzare Expo, perché mi dispiace dirlo, ma a volte nel nostro paese, per fare delle cose normali, bisogna usare degli strumenti particolari. Allora, noi come Regione Lombardia e come città di Milano eravamo molto indietro nelle infrastrutture. Quindi come Olimpiadi Invernali per Torino, con l'Olimpiade del 2018 per Genova. Esatto. E questo ci ha permesso di avere, grazie all'impegno che comunque naturalmente la Regione Lombardia aveva messo e già per averle, quindi ci ha permesso di avere 12 miliardi di euro in infrastrutture, quindi quelle infrastrutture che la Regione Lombardia aveva già avviato, ma per le quali insomma si faceva fatica ad avere poi una via libera. In particolare per Milano, due nuove linee metropolitane dopo 20 anni che non si costruivano linee metropolitane, e l'allungamento delle altre tre esistenti. Tutti questi finanziamenti, per quanto riguarda la parte statale, regionale e comunale, sono già finanziati e già nei nostri bilanci. Quindi, in particolare per quanto riguarda il Comune di Milano, circa 3,4 miliardi di euro di investimenti per la parte nostra come comune, un po' meno perché questo comprende anche la parte statale. Il Ministero dell'Economia ha sempre sostenuto questo progetto, tant'è vero che in una manovra finanziaria difficile come quella attuale, i fondi, forse gli unici che non sono stati toccati, sono i fondi che riguardano la partecipazione del Ministero dell'Economia ad Expo, alla società Expo. Quindi questo credo che vada detto per far chiarezza sul sostegno che noi abbiamo avuto. E il presidente Berlusconi ha firmato il dossier di registrazione, perché dopo la candidatura bisogna presentare il dossier per la dopo la candidatura e dopo la vittoria bisogna presentare il dossier per la registrazione. Allora, qui non ci sono ritardi, perché le regole del BIE chiedono che il dossier di registrazione venga presentato la settimana prima che inizi l'Expo che precede quella per cui si presenta la registrazione. Vale a dire, l'Expo di Shanghai si è aperta il 1 maggio di quest'anno, noi il 22 aprile abbiamo presentato il dossier di registrazione. Ora, sempre per regole BIE, dobbiamo aspettare 6 mesi di tempo. I 6 mesi di tempo scadono il 19-20 ottobre, e per quella data avremo la registrazione. Quindi questo è l'iter, quindi non ci sono ritardi. Noi dovremo presentarci, lo dico per assoluta chiarezza, dovremo presentarci per avere la registrazione con la disponibilità delle aree. Quindi questo è il punto sul quale stiamo lavorando, ma per il resto non ci sono ritardi. Anche il fatto di non vedere ancora cantieri è normale, perché fino a quando non abbiamo la registrazione non possiamo avviare cantieri. L'altra cosa importante che credo vada sottolineata è che non si può modificare il dossier di registrazione salvo che non arrivino richieste dagli stati membri, cosa che al momento non sono arrivate. Quindi questo è un buon segno, vuol dire che il nostro dossier di registrazione è un buon dossier. Non si possono modificare, quindi le scelte che nel 2007 sono state fatte riguardo alla localizzazione, riguardo la tipologia del sito, riguardo l'Expo stessa, vanno mantenute. L'altro motivo per il quale io ho candidato Milano, quindi primo per poter avere infrastrutture che Milano non aveva da tempo, secondo per rafforzare la proiezione internazionale di Milano, quindi effettivamente questa esposizione universale ci ha già consentito di rinforzare legami con i 150 paesi che fanno parte del BIE. Abbiamo rafforzato collaborazioni di tipo culturale, scientifico, economico, quindi ne potrei davvero citare tantissime. importantissime. Il terzo punto è lasciare un'eredità positiva alla città. Allora, Expo prevede che del sito, che è un sito di 110 ettari, 56 ettari saranno verde e acqua. Naturalmente ci sarà una parte residenziale, perché se no sarebbe un'area morta, quindi nessuno vuole avere un'area che spegne le luci e chiude i battenti al pomeriggio, il sabato, domenica e la sera. Lasceremo alla città un parco di 800 ettari, quindi il parco più grande d'Europa. Quindi questa sarà la vera eredità che lasceremo alla nostra città per Expo, quindi credo che sarà un'eredità estremamente positiva. A questo aggiungo che l'occupazione prevista, ovviamente, che cresce man mano che si avvicina l'evento, è una occupazione importante, quindi ancora oggi parliamo di 70.000 posti di lavoro, parliamo di un fatturato aggiuntivo rispetto al nostro fatturato di circa 40 miliardi di euro, e l'altro motivo è per valorizzare, quindi questi motivi, lasciare un'eredità positiva a Milano. L'altro motivo, essendo Expo un evento nazionale, è quello di poter fungere da catalizzatore anche per incrementare il nostro turismo e per valorizzare il nostro Made in Italy in un settore, l'enogastronomia, che è uno dei settori maggiormente trainanti oggi e nel futuro. Quindi abbiamo già firmato accordi con oltre 50 città, quindi Expo non attirerà visitatori solo a Milano, ma faremo pacchetti turistici congiunti perché i visitatori vadano a Verona, ascoltare all'Arena, a per Genova, per estendere l'impatto. Esatto. Allora, noi adesso abbiamo la pubblicità, torniamo con una domanda che riprende dall'Expo ma si allarga poi agli altri temi della città. Tra poco pubblicità. Eccoci tornati in studio con il sindaco di Milano, abbiamo sentito una prospettiva, insomma, un po' di lungo periodo, che però rassicura da parte del sindaco di Milano sul fatto che non c'è un solo passo indietro, non c'è neanche un vero e proprio ritardo dal punto di vista dei tempi, naturalmente delle procedure internazionali, e soprattutto abbiamo sentito dell'impatto che questo evento avrà, perché in realtà c'è chi ha pensato, signor sindaco, che eventi come l'Expo oggi nel mondo diversificato siano un po' eventi in cui dà il meglio di sé e forse ha un impatto anche migliore, appunto, i paesi emergenti evoluti, e questi sono diventati un pochino le locomotive al traino della crescita, piuttosto che i vecchi paesi avanzati, perché i vecchi paesi avanzati sono quelli poi in cui in realtà si concentra il più delle difficoltà, c'è cioè più antropizzazione, più difficoltà di procedere nell'infrastrutturazione, insomma un po' i problemi che ci sono in Italia, non solo in Italia, mentre invece per i paesi emersi, beh, a quel punto è la strepitosa occasione per concentrare ancora di più la propria crescita. Tant'è vero che c'è chi dice, nelle ultime edizioni, insomma, quelle fatte nei paesi già avanzati sono andate così e cosà rispetto a ciò che era stato previsto, anche come impatto economico, come numero di visitatori. È chiaro che se uno va a vedere a quella che c'è in corso in Cina, lo sappiamo tutti, a Shanghai non è che possiamo illuderci. Perché pensare che non è così? Che un paese anche che è nel novero del G7, che è la quinta potenza manifatturiera mondiale, il secondo esportatrice in Europa, in realtà da un'amministrazione come questa può ancora guadagnarci più che rimetterci? Cioè, soprattutto, non promettere cose che poi non sarà in grado di mantenere rispetto alle ultime edizioni, anche un po' l'edizione spagnola, infatti, che ha un po' deluso. In che cosa noi possiamo sperare di essere diversi, di riuscirci? Ma io direi che innanzitutto il tema che noi abbiamo scelto è un tema estremamente interessante, parliamo di alimentazione e di energia, quindi parliamo di temi che sono al centro dell'attenzione di tutti i governi. Su questi temi noi abbiamo sicuramente una preparazione, una capacità da mostrare al mondo, e quindi credo che questo possa attrarre rispetto a venire in Italia, a venire a Milano per l'esposizione universale, perché qua effettivamente, come dicevo prima, il settore dell'enogastronomia è un settore estremamente valorizzato. Le cito solo un esempio: l'apertura di Italy a New York ha attratto in una maniera impressionante, quindi Italy è questa impresa sociale che parla di che mostra e vende prodotti tipici italiani, quindi io credo che è un modo per attrarre verso la conoscenza del nostro sistema food e wine, che comunque sono dei sistemi che compongono anche questi il nostro prodotto interno lordo. E poi l'altra caratteristica che credo che sia ci ponga in una situazione diversa rispetto agli altri paesi è che Milano offre un sistema di culturale estremamente importante, quindi la possibilità di attrarre turismo. Milano, credo che non tutti lo sanno, è la terza meta culturale d'Europa dopo Parigi e Roma, quindi io credo che anche questo possa essere un motivo per dire saremo capaci di attrarre turismo, e il fatto di esserci messi in rete con le altre città italiane è un valore aggiunto, quindi il modo col quale costruiremo questi pacchetti turistici congiunti farà sì che i visitatori potranno a prezzi contenuti ridotti venire non solo a Milano ma in altre città, quindi la possibilità di visitare il nostro paese e l'Italia, la possibilità di sperimentare la nostra filiera di enogastronomia, ma anche la possibilità per i paesi di mostrare quelle che sono le innovazioni, quelle che sono le tipicità dei loro paesi in un settore che anche per moltissimi paesi è un settore importante. Quindi oltre a questo aggiungo che Expo ha anche una caratteristica molto particolare, la nostra Expo, che è quella della cooperazione internazionale, quindi noi stiamo lavorando con oltre 90 paesi per aiutare questi paesi, e qui sì parlo di paesi in via di sviluppo, paesi che ancora soffrono appunto fame e povertà, a sviluppare progetti concreti di formazione, di educazione, di formazione di quello che si chiama il capitale umano e sociale. Quindi credo che il fatto di poter mostrare questi risultati concretamente, sono risultati che già noi possiamo vedere nei paesi nei quali abbiamo iniziato a operare, potrà essere un traino, e farà di questa Expo un'Expo più basata sulla conoscenza che non basata sulla potenza di mostrare appunto palazzi. Non siamo un paese che deve proiettare la sua potenza economico monetaria imperiale nel mondo, come inevitabilmente questa edizione della Cina è la dimostrazione. Ma guardi, un'altra cosa, noi siamo anche qui, non tutti lo sanno, Milano è il secondo distretto agricolo italiano, e la Lombardia è la regione che ha la più alta produttività agricola, quindi questo è interessante da mostrare rispetto al tema precedente. Esatto, non c'è dubbio. Esatto. Allora, un po' di ascoltatori ci dicono che la sto mettendo troppo facile, troppo comoda. Noi abbiamo ascoltatori molto esigenti, non creda, è molto, posso dirvelo, Topolino ascolto, molto di sinistra, perché non c'è niente di male. Questo è perché Radio 24 è una radio critica che rompe le scatole, e naturalmente io poi sono al centro dell'accusa che la servo sempre troppo calda, per così dire, ma sarà così. Allora, sentiamo qualche telefonata per vedere un po' di cosa giustamente volete che si chieda al sindaco. Iniziamo con Margherita dalla provincia di Milano, se leggo bene. Margherita, prego. Buongiorno, sì, buongiorno al sindaco e buongiorno a lei Giannino. Non voglio essere negativa e partire su un piano critico, perché mi rendo conto che essere responsabile di una città come Milano è veramente un'opera di grandissime difficoltà. A volte abbiamo la sensazione che non tutte le azioni siano coordinate e soprattutto siano condivise da tutti coloro, parlo di tutto l'assetto politico. Adesso io volevo fermare ci vuole solo la pazienza di una donna per farlo meglio, se mi permette, perché sa che questo è Europa. Spesso le scatole su questo tema di genere. Forse io ne sono abbastanza convinto, quindi non è che lo dico perché c'è il sindaco di fronte, lo dico a prescindere. Io stessa, quindi figuriamoci se non condivido il suo. Dica Margherita. Anziana. Volevo dire questo, mi raccomando, soprattutto per quello che riguarda Expo, perché da vecchia milanese quale sono nel cuore, nello spirito, l'idea che si possa fallire mi sconvolge. Ma detto questo lo chiudo. No, perché molti preferirebbero fallire per dire così l'avevo detto. Secondo me è un disastro tale che è meglio se. Io amo la mia città. L'amo da tanti anni ormai. Venga la domanda. Volevo fissarmi su due punti, quelli che sono gli arredi mobili della città e l'illuminazione della città. So che se ne è parlato a lungo e che poi si che secondo lei è un po' triste, che idea? Triste, l'illuminazione che spegne tutto. tutte le sue luci, la chiusura dei negozi rende la città triste e questo è anche oltretutto insicura. Per cui questo è un aspetto di cui si è tanto dibattuto e secondo me non è mai stato realmente risolto. L'altra cosa può sembrare molto banale, ma io ho occasione di passare molto spesso in Piazzale Cordusio. Sì, Piazzale Cordusio e tutta la zona lì attorno. E ho dovuto notare con grande disappunto che si fa pochissima attenzione, si presta pochissima attenzione agli arredi mobili, come possono essere le edicole, per esempio. Tanto per attaccarci alle piccole cose. No, che però danno un'idea coordinata o scoordinata e soprattutto più calda o più fredda dell'intero impatto visivo della città. Chiarissima l'idea, scusi se la interrompo perché dobbiamo accelerare un po' i tempi, signor Sindaco. Allora, per quanto riguarda, grazie Margherita, perché sono domande tutte estremamente importanti per la vita quotidiana dei cittadini. Allora, per quanto riguarda l'illuminazione, noi abbiamo stanziato negli ultimi 2 anni 21 milioni di euro per un piano di illuminazione che man mano stiamo realizzando, con un'illuminazione diversa rispetto a quella precedente, vale a dire utilizziamo i LED, quindi è una luce più bianca a minore consumo energetico, e illuminiamo non più solo le strade ma anche i marciapiedi. Un esempio di questo lei lo può avere per esempio in stazione centrale fino a tutto Piazza Repubblica, ma abbiamo in questo modo illuminato più di metà di queste 43 aree, per esempio Viale Monza, per esempio Via Lorenteggio, per esempio il parco, il Ponte Lambro, per esempio il parco Cercovo, quindi sempre partendo dalle richieste dei consigli di zona, quindi non decidendo noi ma partendo dalle richieste dei cittadini. E la differenza è una differenza straordinaria, solo che quando ci si abitua a queste nuove luci non ci si ricorda di come erano le luci precedenti. Io faccio sempre, quando vado a fare le inaugurazioni, l'esperimento di illuminare e poi di nuovo spegnere e si vede qual è la differenza. Questo è comunque un punto che è apprezzato, non sempre viene riconosciuto, perché ripeto, quando si è illuminata la zona, e la zona viene illuminata non solo per quanto riguarda la via centrale ma anche tutte le vie che si incrociano con la via centrale, in modo tale da avere un'area completamente illuminata. Comunque il piano è un piano da 21 milioni di euro, quindi credo che sia un certo impatto. Un piano, ecco, perché il problema non era tanto la quantità di luce, noi abbiamo un numero di punti luce che è praticamente uguale a quello di Roma, ma è la qualità della luce. E invece l'idea delle edicole, gli arredi urbani mobili. Certo, allora noi abbiamo lavorato su quello che si chiama l'abaco urbano, quindi è un piano complessivo, abbiamo cercato di farlo per non prendere delle decisioni che ci portassero ad avere un lampione fatto in un certo modo in una strada, una panchina di un altro tipo in un'altra, quindi per cercare di razionalizzare l'arredo della città. Il piano è stato fatto e abbiamo iniziato a realizzare tutto questo, poi ci vorrà del tempo per vedere complessivamente i cambiamenti, però per esempio abbiamo iniziato a rivedere il sistema, non so, delle panchine, abbiamo iniziato a rivedere il sistema dei cestoni dell'AMSA, abbiamo iniziato a rivedere anche le edicole, le prime edicole nuove, dico solo che devono essere anche approvate dagli edicolanti, esatto. Non è che possiamo noi imporle dirigisticamente. Esatto, quindi man mano che gli edicolanti decideranno di cambiarle, avranno e hanno una modalità attraverso le quali potranno farle, senza la quale non ci sarà un'autorizzazione, però devono essere loro a... Benissimo, quindi un po' di pazienza, ci arriveremo, abbiamo un minuto di informazione sulla circolazione stradale, poi torniamo in studio. Eccoci tornati in studio con il sindaco di Milano, rapidamente un po' di punti caldi, uno di questi riguarda sicuramente... Facciamocelo dire direttamente da Alfonso a Milano, che da quello che capisco fa il tassista, vero Alfonso? Sì, buongiorno, sono Alfonso Faccioli, sono un tassista di Milano. E immagino quindi che la circolazione stradale non sia esattamente l'ultimo dei problemi nella sua vita. Appunto, guardi, visto che due piccole cose, allora, perché forse io vivo in una città che è Milano, no? Forse la signora Emoratti non vive a Milano. Io ah no, lei pensa che il sindaco dove viva, scusa? Non so, perché io qui sono, perché tutto bene. Facciamo la domanda, no, perché se cominciamo a lancia in resta ho capito che non andiamo. Perché è anche per discostarsi un po', perché è tutto bello, perché se no uno pensa che Milano è giustamente un paradiso. Io dico solo due cose. Ho scelto apposta telefonate critiche per fare a me la figura dello zerbino, come dicono in molti nascosti. Ma no, sto scherzando, un po' di ironia. No, ma lei è bravissimo. E per dare un po' anche il punto della situazione reale, sì. Io infatti adesso sono qua nella tangenziale nord. Milano è l'unica città al mondo dove tutto il traffico da Venezia a Torino a un certo punto si incrocia con la tangenziale di quelli che vanno, i poverini, a Cormano, a Sesto, per dire. Dunque, ciao Expo. Io venerdì ho fatto 2 ore e mezzo con la troupe di Rai 2, dell'Ultima Parola, sui cantieri di Milano. E io le dico che Milano oggi non è una città pronta per l'Expo, neanche per la visita del Papa, neanche per la fiera del mobile. E dunque, secondo lei, Alfonso, cioè, ci dobbiamo buttare di sotto o dobbiamo fare qualche cosa? No, è certo. E io spero che la Moratti riesca ancora, se ha la possibilità, nei prossimi 5 anni, a capire che questa è una città che ha bisogno di muoversi, dove gli abitanti, i cittadini devono muoversi. Chiarissimo. Io ho visto che uno, un povero Cristo, non può stare 1 ora e mezza per andare a lavorare. Dunque, va bene i lampioni, va bene le edicole, va bene lì la moda. Va bene. Alfonso, la domanda è chiara. Purtroppo temo che il ritardo di tanti anni e decenni fermi sulle infrastrutture spiega perché poi siamo, purtroppo, come ci dice lei. Comunque, d'ora in poi domande secchissime, risposte secchissime. Signor Sindaco. Allora, il tema delle infrastrutture, come ho detto, è un tema che si trascinava da anni. Io ne cito solo 3, perché erano 3 infrastrutture. Lei ne ha citata una che non è nelle responsabilità del comune, ma ha ragione. Questo non vuole significare che il comune non si debba attivare per avere comunque le infrastrutture che fanno accedere al comune e che scarichino il traffico. Però io ne cito 3 perché credo che siano fondamentali, e queste ormai sono avviate: sono la Pedemontana, la Brebemi e la TEM, la tangenziale est esterna, importantissima. Questa non era ormai purtroppo al di fuori dell'agenda che la regione Lombardia, con grande, come dire, puntualità, continuava a insistere di avere. Adesso l'abbiamo, sono partite queste tangenziali, sono partiti questi lavori. Ne aggiungo 3: l'allungamento della M1 fino a Monza Bettola, l'allungamento della M2 fino ad Assago e l'allungamento della M3 fino a Comasina. Queste sono già partite, la linea 2 fino ad Assago si inaugurerà entro fine anno e a seguire Comasina e Monza entro il 2015. Quindi, così come sono partite tutti quei lavori che riguardano per esempio il collegamento tra Malpensa e il sito Expo, che riguardano il collegamento tra Linate e il sito Expo, che riguardano le principali strade, diciamo, di percorrenza. Aggiungo che nel nuovo piano di governo del territorio è prevista quella che si chiama la Circle Line, vale a dire che il passante ferroviario con fermate in più diventi una sorta di metropolitana leggera. Però lei giustamente, Alfonso, credo mi insegna che non è che uno ha la bacchetta magica e le infrastrutture si fanno e si realizzano nel giro. E del resto l'Expo è servito apposta, esatto, come ha detto il sindaco, apposta per tentare di avere attenzione e risorse per recuperare il tempo perduto, esatto. E questo è un problema nazionale. Senta, negli ultimi giorni vi siete dati un pochino così da fare con polemiche sui giornali. Io le avrei evitate, a dire la verità. Io penso che non è una critica a lei, penso che non ho capito perché anche il ministro dell'interno si mette a intervenire così a piedi uniti. Lo dico avendolo anche detto personalmente a lui. Sto parlando della moschea, della sicurezza, perché io penso che poi quando i livelli istituzionali si sovrappongono le polemiche diventano più difficili da comporre. Non so, può essere che mi sbaglio, questa è un'opinione mia. Non le chiedo quindi certo commenti, le dico semplicemente questa questione della moschea, della coesistenza con la comunità musulmana, eccetera, eccetera. È possibile, secondo lei, raffreddarla invece che riscaldarla? Perché tutte le volte che la si riscalda così, io ho l'impressione che non sia un favore fatto a lei e a chi deve poi risolvere il problema con l'integrazione, o no? Sbaglio? Certo, ha ragione, tutti i problemi dovrebbero essere affrontati in una logica, come dire, di ricerca di soluzioni, però non sempre le soluzioni sono facili. Per esempio nel caso della moschea, noi ci troviamo in una situazione confusa nella nostra città, quindi abbiamo bisogno di avere dei riferimenti chiari, quindi di avere degli interlocutori precisi. Per esempio, io cito l'esempio di Roma, la moschea di Roma è stata costruita perché c'è stato un governo, il governo marocchino, che si è preso la responsabilità e ha garantito che quello era ed è un luogo di culto. Allora, noi questo non l'abbiamo qua a Milano, abbiamo una serie di comunità, abbiamo peraltro già anche dei luoghi di culto nella nostra città, esatto. Quindi non è vero che non ci sono. Quindi per questo motivo io ho chiesto che per quei luoghi di culto che non hanno, come dire, un rapporto con il governo, quindi vale a dire quelle religioni che non hanno un rapporto istituzionalizzato col governo, ci sia una legge che faccia chiarezza su quali sono le caratteristiche che devono avere questi luoghi di culto. E quindi resta no, mi pare di capire. Certo, rispetto... fino a quando non c'è una nuova legge che fa chiarezza rispetto a quelle che sono le caratteristiche che deve avere un luogo di culto, certamente non è possibile. Esattamente. Bene, io devo ringraziare il sindaco, abbiamo già sforato di un minuto e mezzo, e di dargli un appuntamento, perché qui con le grandi città dobbiamo tentare di parlare di politica con loro rispetto a quello che dice la politica nazionale, che non dice. Non ho fatto domande al sindaco sulla politica nazionale, molti di voi me le chiedevano, ma perché non è competenza del sindaco, e così teniamo anche le polemiche un po' più basse. Avete capito che faccio il pompiere, non faccio l'incendiario? Sbagliate, io voglio che si parli di problemi concreti, mentre non mi interessa parlare di chiacchiere, questa è la differenza. Grazie ancora signor sindaco, per noi appuntamento a domani, Linea Generale Radio. Grazie a lei e grazie a tutti voi. Radio 24, la passione si sente.